rimasto in vita non riconoscerebbe la propria città. Ahimè, se tornasse nella sua classe la troverebbe identica. Nel frattempo è cambiato il mondo. Esatto. Ma pensate in ogni cosa che fate, quindi vale anche per lei, che è bravissima, le famose 3P. Quindi qualunque cosa voi facciate, per avere un buon risultato, applicate le 3P che sono passione, passione e passione. Difficilmente i risultati saranno deludenti. Io vivendo in campagna, intanto mia madre non fa altro che dirmi, essendo anziana, con esperienza, a dirmi ti faccio pulire due malve. La malva da ogni male salva. È vero. Bellissimo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Con il Ticket to Ride dei Beatles ballavamo qualche anno fa, c'è un altro ticket, questo è veramente un volo pindarico per il quale ringrazio Marco Lombardo, che ci ha fatto invece molto discutere in questa estate 2015, ci riferiamo a quello del buono pasto, una storia estiva che interessa tantissime persone italiane, tantissimi lavoratori, è una storia che ha fatto qualche comparsata su qualche giornale ma che forse non è stata spiegata bene come sarebbe necessario fare, per questo noi di Cuore e Denari abbiamo pensato di riprenderla per capirla meglio intanto anche noi e poi per cercare di trasmetterla adeguatamente agli ascoltatori e alla platea degli interessati. Parliamo dei buoni pasto, dicevo, in particolare di quelli elettronici, perché da luglio è entrata in vigore una maggiore detassazione di questi, in particolare in forza della legge di stabilità la soglia della detassazione è passata da 5,29 a 7 euro. È in apparenza una notizia positiva al 100%, in effetti lo è, questa misura permette di mettere in tasca il lavoratore che ne fruisce circa 1,70 euro in più. La misura riguarda ben 2.300.000 lavoratori. Il problema qual è? È che questi buoni, più che per il pasto, vengono usati spesso, come sapete, per la spesa dei lavoratori. E qui si è aperta tutta una discussione. È ancora possibile usarli per fare la spesa? Sono cumulabili? Fino a che punto? Cosa è cambiato con questa maggiore detassazione? Allora, prima di tutto, voi all'800 24 0024 iniziate a raccontarci se siete parzialmente remunerati anche attraverso questa modalità, se li utilizzate, come li utilizzate al ristorante, al supermercato ogni giorno oppure con una cadenza differente e quando li presentate al ristoratore o all'esercente, cosa dicono queste figure. Nell'ultima parte della trasmissione dedichiamo invece la pagina, dalle 11.45, la pagina di Cuore, alla gestione dei piccoli incidenti domestici. Parliamo di tagli, ferite, abrasioni e ustioni per imparare a fare la cosa giusta nei tempi giusti. Siamo attrezzati per affrontare queste piccole emergenze. A chi non è capitato di tagliarsi con un coltello affilato, zac, è un attimo, o di provocarsi un'ustione estraendo la torta dal forno. Niente di gravi, piccoli incidenti di percorso che oggi impareremo ad affrontare, a gestire. Ci aiuterà il nostro esperto, il dottor Luigi Toma, infettivologo degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma. Dai, usciamo a fare la spesa. Mandaranci, mele, frutti, esotici. Sappiamo che nell'economia della famiglia spesso tutto si regge su un equilibrio delicato e che per tante famiglie buoni pasto ricevuti sul posto di lavoro, che dovrebbero teoricamente servire proprio ad affrontare il pasto quotidiano, quindi a utilizzare questo piccolo documento per, appunto, per la spesa, per questo impegno di spesa, sono una risorsa importante invece proprio per fare la spesa vera e propria al supermercato, e con una spesa si mangia di più che con l'equivalente al ristorante sotto l'ufficio. Magari ci si prepara un prezzo pranzo che poi si porta anche sul posto di lavoro. Nel corso di quest'estate abbiamo letto varie notizie più o meno precise. Abbiamo letto che non sarebbe stato più possibile fare la spesa al supermercato con i buoni pasto, che non sarebbe più stato possibile cumularli. Si è fatta a quanto pare un po' di confusione. Allora noi questa mattina abbiamo chiamato un bel gruppo di ospiti per cercare di chiarire la situazione. Buongiorno intanto ad Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia. Il gruppo Edenred, per chi non lo conoscesse, è l'inventore del Ticket Restaurant. Dottor Keller, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente non fate solo questo, ma più complessivamente siete proprio il leader mondiale nella gestione di fondi finalizzati per le imprese, quindi un impegno un po' più a 360 gradi, poi magari ce lo facciamo raccontare da lei. Monica Valente, giurista di Altro Consumo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno anche ad Esmeralda Giampaoli, presidente della FIEPET, la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno grazie a tutti gli ascoltatori. Chiaramente ribadisco il numero verde per i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, numero a cui potete rilasciare le vostre testimonianze come fate ogni giorno. L'azienda vi riconosce dei buoni pasto, presso quali esercenti li utilizzate, li usate per fare la spesa, quanti ne accetta il vostro negozio di fiducia, ve li fa accumulare, oppure quando li presentate il commerciante storce un po' il naso. Allora, prima di arrivare al punto di vista dei consumatori e quello degli esercenti, vorrei inquadrare quello che potremmo definire il fenomeno buoni pasto. Dottor Keller, vengo proprio da voi che siete gli inventori di Ticket Restaurant. 2.300.000 lavoratori in Italia ne fanno uso, però molti conoscono indirettamente questo sistema, no? Allora spieghiamo come funziona, come teoricamente dovrebbe funzionare, in che misura coinvolge azienda, lavoratore e poi in ultima battuta gli esercenti, e perché si è rivelato anche un sistema vincente per tutti questi fruitori. Sì, certo. Allora, il buono pasto è stato creato nel 1976 con l'obiettivo delle pari opportunità per tutti i lavoratori. In pratica all'epoca c'era l'emergere del settore terziario, e questo settore terziario era fatto da piccole e medie aziende che non avevano la mensa, quindi non c'era la nozione di fabbrica. Per garantire l'accesso alla pausa pranzo a tutti i lavoratori, quindi, si è pensato di creare il buono pasto, ed è proprio una misura di carattere sociale destinata alle pari opportunità per tutti i collaboratori delle aziende. Come funziona? Ci sono tre attori che sono coinvolti nel sistema. Il primo attore è l'azienda o l'amministrazione pubblica, che è il finanziatore del buono pasto, perché li acquisisce, e li acquisisce in un contesto di vantaggio fiscale, perché non paga oneri fiscali su il buono pasto acquisito e poi distribuito al lavoratore. Il lavoratore è dunque il secondo attore che beneficia di questo potere di acquisto, e beneficia anche lui di un'esenzione fiscale, perché il valore del buono pasto non contribuisce a reddito e quindi è un potere di acquisto netto per il lavoratore, e il lavoratore a questo punto diventa un consumatore, entra in un locale pubblico, utilizza il buono pasto, e il vantaggio per l'esercente, che è quindi il terzo attore, è l'incremento del fatturato e il fatto che capta una nuova clientela, un segmento di clientela grazie a questo strumento. Qualche cifra per completare i 2.300.000 lavoratori di cui parlava: oggi il mercato rappresenta 2.700.000.000, è utilizzato presso 150.000 esercenti, e secondo delle studi dell'analisi dell'Università di Tor Vergata rappresenta tutta la filiera del buono pasto lo 0,72% del PIL italiano, e 190.000 posti di lavoro tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Insomma, una vera e propria industria. Mi manca solamente un passaggio che è una mia curiosità, dottor Render: è proprio come se fosse denaro liquido che passa da una mano all'altra, l'ultimo che ne fruisce, per esempio il ristoratore a cui arriva in mano in ultima battuta, poi come può farlo diventare proprio denaro liquido? Lo può depositare un buono pasto direttamente in banca ad alimentare un conto corrente, per esempio? Chi glielo cambia? Allora, ci sono giustamente degli emettitori, delle società come noi, che emettono il buoni pasto, e qualora il ristoratore presenta il buono pasto a rimborso, questo buono pasto, che non è denaro perché fa oggetto di un tracciamento fiscale perché è fatturato, quindi con IVA all'emettitore, l'emettitore rimborsa l'esercente facendo un bonifico sul suo conto. Non è denaro perché è un potere di spesa finalizzato a della spesa di carattere alimentare, essendo un servizio sostitutivo di mensa, ovviamente è destinato a acquisire beni alimentari. Monica Valente, allora il dottor Render prima ha citato la questione oneri fiscali praticamente nulli per i datori di lavoro che li distribuiscono e li rilasciano ai propri lavoratori. Proprio nel panorama fiscale si è avvenuta, appunto, è arrivata la novità di luglio, e riguarda la tassazione di questi buoni pasto. Allora, ci spiega bene, per capire di che cosa stiamo parlando, le motivazioni per cui questo poi è un tema che è andato alla ribalta della cronaca, che cosa è cambiato? Una tassazione che è stata modificata dopo ben 17 anni di stabilità. Sì, ha spiegato già lei benissimo in realtà il profilo fiscale, perché, come diceva all'inizio, è cambiata la tassazione dei buoni elettronici, cioè è stata alzata la soglia di detassazione, che è passata da 5,29 a 7 euro. Questo non vuol dire che il lavoratore ha a disposizione ogni giorno 1,71 euro in più, però quell'1,71 euro non viene più tassato. Quindi quello che prima versava in tasse, che veniva quindi decurtato dalla sua busta paga, adesso lo può intascare. Ovviamente parliamo di qualche centesimo di euro al mese, non parliamo certo di una svolta epocale, però diciamo che come tutte le cose è meglio di niente. E poi comunque ci avvicina di un passo ulteriore agli standard europei, quindi è una novità comunque positiva, e quindi ben venga. In realtà il buono pasto elettronico ha tanti risvolti positivi, non solo quello del profilo fiscale, magari li vedremo meglio più avanti, però sicuramente facilita la vita del lavoratore. Certo. Allora, visto che lei me l'ha fornita su un piatto d'argento, devo necessariamente adesso fare la differenziazione fra il buono pasto tradizionale e quello in formato elettronico, perché poi probabilmente un po' tutta la confusione di quest'estate si è concentrata lì. Prima però mi devo scusare col dottor Keller, perché l'ho chiamato Render facendo confusione con la società. Dottor Keller, abbia pazienza, sono appena tornata dalle ferie anch'io, devo resettare, ho resettato totalmente la materia grigia, quindi ancora mi devo rimettere a posto. Allora, dottoressa Valente, appunto, giurista di altro consumo, c'è questa distinzione che abbiamo appena introdotto e riguarda la differenziazione fra buoni pasto normali e quelli in formato elettronico. Chi è che decide quale formato adottare? L'azienda o il lavoratore? Come funziona la versione elettronica? C'è una sorta di card, come una carta acquisti su cui viene caricato il valore del buono? Allora, innanzitutto diciamo che i buoni pasto elettronici esistono già da qualche tempo, cioè non sono una novità dell'ultima ora, già da qualche tempo convivevano con i buoni cartacei. A decidere sotto quale forma distribuirli al lavoratore è il datore di lavoro. Mentre prima, appunto, i buoni cartacei consistevano in un carnet di ticket che venivano proprio fisicamente staccati dal blocchetto e consegnati all'esercente per il pagamento, adesso i buoni elettronici consistono in una targhetta magnetica, una tessera magnetica dotata di un microchip che, per funzionare, ha bisogno di un POS, esattamente come funziona con le carte di credito e bancomat. Quindi le differenze tra i due tipi di buono: abbiamo detto che mentre il valore, la soglia di detassazione per i buoni elettronici è cambiata, quella dei buoni cartacei rimane fissa a 5,29, quindi ancora si paga qualcosina di tasse su questi buoni cartacei, quindi primo vantaggio per i lavoratori che ricevono il buono elettronico. Poi dei vantaggi nell'utilizzo, nel senso che sicuramente le procedure sono più snelle e veloci rispetto a prima. La prima è, per esempio, che quando dobbiamo avere la ricarica dei nostri buoni elettronici, magari prima dovevamo inseguire il responsabile aziendale dei buoni elettronici per avere il nostro carnet, adesso vengono ricaricati automaticamente ogni mese in base al numero dei giorni lavorati. Poi facilità e snellezza di utilizzo presso gli esercenti, perché comunque, come dicevo prima, è sufficiente strisciare o inserire comunque la targhetta nel POS per scalare i buoni pasto necessari al pagamento, mentre prima magari ricordiamo tutti le code a al supermercato in attesa che venissero strappati dal carnet i ticket, che poi si strappavano sempre nel posto sbagliato, certo, nel modo sbagliato, infatti. Quindi comunque facilità di utilizzo, e da ultimo una maggior tutela in caso di furto o smarrimento. Con il ticket elettronico, se smariamo la tessera magnetica, abbiamo a disposizione una procedura di blocco che ci permette, esattamente come le carte di credito e bancomat, di bloccare la tessera smarrita, di chiederne un duplicato e di recuperare i ticket, certo, che avevamo sull'originale. Dottor Keller, perché è stato deciso di aumentare la defiscalizzazione praticamente del buono pasto formato elettronico per incentivarne l'utilizzo, e soprattutto che effetto si è avuto anche fra la platea dei lavoratori, dei datori di lavoro che li utilizzano appunto a vantaggio dei propri lavoratori? Voi che tipo di movimento nella vostra attività avete osservato anche a seguito di questa decisione del governo di modificare il regime fiscale applicato ai buoni? Ma guardi, il segnale di defiscalizzare maggiormente il buono pasto elettronico l'abbiamo interpretato come un segnale forte da parte del governo di procedere alla modernizzazione del settore. Bisogna ricordare che è uno strumento, quello del buono pasto, che è stato creato oltre 40 anni fa e che quindi in 40 anni non ha subito trasformazioni radicali come tanti altri settori hanno vissuto grazie alla tecnologia. Quindi noi l'abbiamo interpretato assolutamente in modo positivo e con una spinta a procedere a questa modernizzazione del buono pasto, ma anche a contribuire un po' alla modernizzazione del sistema paese. Ad esempio, se prendiamo le reti di esercenti che accettano i buoni pasto, i famosi 150.000 esercenti di cui parlavamo prima, nostri studi interni che abbiamo fatto anche ripetute volte dimostrano che il tasso di penetrazione dei terminali bancari di pagamento è inferiore al 15%. Vale a dire che siamo davanti a una rete di aziende, di esercenti che non sono ancora state toccate in modo pervasivo dalle nuove tecnologie, ed è un'opportunità giustamente per far fare il salto di qualità a questi punti vendita. Secondo punto molto importante, sempre in un'ottica di Sistema Italia, è l'informatizzazione dei processi delle risorse umane, se parliamo di azienda, che contribuiscono alla produttività e alla competitività delle aziende italiane. Tutti sanno che la tecnologia spinge in avanti l'efficacia ed efficienza di un'azienda, e quindi questo strumento è stato anche richiesto dalle aziende che, come dicevamo precedentemente, non volevano più distribuire con dei costi annessi manualmente i ticket cartacei ogni mese. Oggi, per darle qualche cifra sulla tendenza del buono pasto elettronico, posso dire che negli ultimi 2 anni c'è stata una notevole crescita. 2 anni fa gli esercenti pubblici dotati di terminali che abilitati a buoni pasto elettronici erano 10.000, oggi sul mercato ne contiamo circa 45.000, quindi c'è stata una forte progressione. E l'uso del buono pasto elettronico sul mercato, che un paio di anni fa era stimato al 10% di tutti gli utenti del buono pasto, oggi è passato al 25%. Quindi, come si vede, c'è una forte crescita che a nostro avviso conferma la qualità della tendenza di evoluzione del settore. È ovvio che non ci si può aspettare che un settore che pesa 2.300.000 lavoratori da un giorno con l'altro, i 150.000 esercenti, da un giorno con l'altro si trasformi. Esatto. Siamo però in un progresso che mi pare ineluttabile. Smeralda, Giampaoli, veniamo allora alla Confesercenti, agli esercenti pubblici, alla Federazione degli Esercenti Pubblici e Turistici appunto italiana, la FIEPET. Come mai si è scatenata tutta questa polemica estiva dietro a questa introduzione appunto di questa defiscalizzazione? E perché praticamente il messaggio che ad un certo punto passava sui giornali era: non si potranno più usare, cumulare presso gli esercizi commerciali, presso i ristoratori, insomma, come mai? Ma secondo noi c'è stata una comunicazione un po' distorta rispetto a quello che invece è stata l'innovazione legislativa. La defiscalizzazione dei buoni pasto a 7 euro elettronici, diciamo che di fatto dà un elemento di novità semplicemente in relazione alla smaterializzazione del buono pasto e alla defiscalizzazione fino a 7 euro. Quindi, come diceva prima il dottor Keller, è un incentivo all'ammodernamento di una rete che di fatto ha una consistenza importante. Di fatto però la normativa che sottosta all'utilizzo dei buoni pasto rimane la stessa. Quindi dal nostro punto di vista, come abbiamo anche già in più occasioni dichiarato, il buono pasto elettronico va esattamente nella direzione voluta dalla legge, che è quello di un utilizzo corretto nei limiti di quello che stabilisce la normativa delle finalità per cui il buono pasto è stato istituito. Mi spiego meglio, quando lei all'inizio ha fatto la provocazione dicendo che il buono pasto è in realtà denaro contante, sono d'accordo con quello che sosteneva dottor Keller, il buono pasto non è denaro contante, quindi non può essere utilizzato in maniera indifferenziata rispetto agli acquisti che si vogliono fare. Il buono pasto è destinato ad essere utilizzato e nei pubblici esercizi ed anche, perché no, nel supermercato, però con finalità che è quella di servizio sostitutivo di mensa. E quindi, questo è il motivo per cui molto spesso appunto non viene permessa l'accumulabilità, non è permesso fare 50 euro di spesa e pagarla interamente con il buono pasto, cartaceo, elettronico che sia, no? Quindi, dottore? Perché il buono pasto elettronico incontra tutta il nostro favore? Perché in questo modo, e le posso assicurare che, come dire, se si spulcia la cronaca ci sono esempi molto più pittoreschi di utilizzo del buono pasto e molto più distorsivi della loro natura, si torna ad avere una tracciabilità sicura di quello che è l'utilizzo che ne viene fatto e come dire, a vantaggio non solo dell'utilizzatore ma anche a vantaggio dei pubblici esercizi, che in questo modo anche loro hanno certezza di una sicurezza, che non siano falsificati, certo, che non siano smarriti, rubati o deteriorati o scaduti, cose che molto spesso incidevano sulla poca volontà sull'essere un po' resti ad accettare il buono pasto. Un altro tema è, magari lo affronto in questa seconda parte di Cuore Denari che arriva fra qualche istante, è quanto buono pasto ti dà il lavoratore, perché a proposito di distorsioni poi dell'utilizzo di questi sistemi sono anche a conoscenza di parti molto rilevanti di stipendio che vengono riconosciute quasi esclusivamente con il buono pasto, per cui è chiaro che poi una persona non è che ci può coprire solamente il pranzo per tutto il mese, avanzano e quindi è evidente che si vogliono utilizzare anche per fare la spesa e quindi se ne devono utilizzare un po' di più perché se ne hanno magari tante in mano, proprio perché costituiscono una parte rilevante di stipendio, come diceva, anche di questi casi siamo a conoscenza, per cui magari ve lo faccio commentare, i nostri tre ospiti fra qualche istante, poi abbiamo anche Carolina da Como e alcuni ascoltatori pronti a dirci la loro su questo argomento, abbiamo un sacco di cose da fare ma dobbiamo fare tutto dopo la borsa. Cuore e denari. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo anche e soprattutto quando siamo di fronte a tutti quei piccoli incidenti casalinghi come tagli, ferite, piccole ustioni che è bene evitare naturalmente, ma che in realtà all'interno delle mura domestiche sono molto frequenti, richiedono di essere gestiti in fretta e bene, possono capitare a noi direttamente, ai nostri figli, congiunti, nipoti. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione dalle 11:45. Voi cominciate intanto a raccontarci se vi è capitato qualcosa e come siete intervenuti tempestivamente. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è impunita. Italia si interroga, buoni pasto al supermercato sì o no, cosa è cambiato da luglio con il nuovo regime fiscale che riguarda in particolar modo il buono pasto elettronico, sono cumulabili oppure possiamo utilizzarne uno, al massimo due quando andiamo a fare la spesa, voi come li utilizzate? 800 24 00 24, come reagireste se vi fosse impedito di usarne più di uno al giorno o se non fosse più possibile usarli per fare la spesa. In realtà da questo punto di vista non è cambiato nulla, anche se nelle ultime settimane si sono rincorse notizie di vario tipo. Stiamo cercando di fare il punto della situazione. È cambiata la defiscalizzazione sui buoni elettronici, come abbiamo spiegato all'inizio, tutto invariato per quello che riguarda invece i cartacei. Con noi stamattina Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia, il gruppo che si è inventato il Ticket Restaurant, Monica Valente, giurista di Altro Consumo, ed Esmeralda Giampaoli, presidente della FIEPET, Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti. Qualche domanda degli ascoltatori, poi purtroppo dobbiamo già andare a chiudere questa parte della trasmissione, speriamo però di averlo quantomeno spiegato bene l'argomento agli ascoltatori. Carolina da Como, buongiorno. Buongiorno, grazie per averlo spiegato bene, perché effettivamente c'è molta confusione. Lei ne usa, Carolina? Sì, noi li usiamo, io sono una dipendente pubblica e ci sono delle criticità. Non tutti abitano nelle grosse città, io abito a Como, dove non sempre è possibile spendere i buoni pasto nei ristoranti. Ci sono buoni pasto e buoni pasto, ci sono dei buoni pasto che sono ben accetti e dei buoni pasto che non sono ben accetti, perché dipende un po' dalla gara d'appalto che poi la Consip va a fare con le imprese che gestiscono questi buoni pasto. La Consip è la centrale che gestisce tutti, praticamente la spesa pubblica. Adesso non saprei neanche definirla correttamente per i nostri ascoltatori, un po' tutto ciò che riguarda la spesa pubblica che viene effettuata pubblicamente, no? Esatto, sì. Carolina, c'è una gara d'appalto, chi offre un miglior prezzo ovviamente vince la gara d'appalto con Consip. Ovviamente questi ticket, diciamo, sul mercato non sono così ben accetti quando si tratta di dipendenti pubblici, perché vanno molto ribasso, avendo un grosso mercato, diciamo, una grossa quantità di fruitori di questo buone pasto, però alla fine lo sconto è molto basso. Senta Carolina, quando lei dice non tutti i ristoratori lo accettano volentieri, lei però mi sta parlando magari del ristoratore dove va durante la settimana, proprio in pausa pranzo, mi sta parlando della cena fatta il sabato sera dove vorrebbe magari utilizzarne 5 per tutta la famiglia? Non è una provocazione la mia, per capire. Dopodiché c'è il secondo punto della criticità della cosa, che dove io lavoro quando sono in ufficio, perché io faccio anche un lavoro sul territorio, quando sono in ufficio noi non abbiamo nelle vicinanze un ristorante dove poter spendere questo buono pasto, e se vogliamo fare una pausa pranzo, mangiare qualcosa, ce lo dobbiamo portare da casa. Per cui per lei insomma sarebbe più utile poterlo utilizzare. Ecco qua. Esattamente. Grazie Carolina, penso che siano tutte le criticità delle quali tutto il sistema che adotta i buoni pasto è ben consapevole, no? Volevo sentire però su questi punti proprio Confesercenti, Esmeralda Giampaoli. Effettivamente il grado di utilizzabilità sul territorio evidentemente non può essere lo stesso ovunque. Assolutamente. E quindi come rispondiamo, ecco, a Carolina? Allora, sul primo punto, non tutti i buoni pasto sono accettati alla stessa maniera. È chiaro che le società emettitrici di buoni pasto sono diverse in Italia e, come dire, la percentuale che viene decurtata sul singolo buono pasto a carico dell'esercente varia da un emettitore all'altro. Ci sono degli emettitori che effettivamente applicano una percentuale per l'esercente veramente molto alta. Ecco, ma ci fa capire, per esempio, se io mi presento per un pasto, spendo 10 euro, gliene do uno che ne vale 7 per l'appunto. Esatto. Che cosa succede per l'esercente? Succede che l'esercente, come dire, facciamo conto che prende 7 euro, di questi 7 euro poi quando viene fattura all'emettitore. Esatto. E sul totale è chiaro che viene decurtato una percentuale che varia dal 5,60, ce ne sono alcuni che vanno al 12, che viene decurtata sul valore facciale del buono o in questo caso sul valore della strisciata sul buono pasto elettronico. È chiaro che laddove le percentuali sono molto alte, l'esercente non ha tutta questa come dire, appetibilità nel poi ci sono casi in cui anche qui perché lo utilizza a macchia di leopardo, perché ci sono nel numero chiaramente viene fuori anche l'interesse. Se io ho un numero molto elevato di utilizzatori e l'emettitore è quello, gioco forza, dovrò adeguarmi a prendere quei buoni pasto. Diversamente, se magari il numero è molto marginale, si predilige magari lavorare con altri emettitori. Certo. Senta, però a prescindere, diciamo, dalle regole di buonsenso, dalla buona volontà di un operatore commerciale, dalle richieste magari a volte stravaganti che una persona che li vuole utilizzare appunto ha, c'è questo limite di cumulabilità? Se si va a fare la spesa in un supermercato appunto e si spendono 50 euro, io posso in una giornata pagarla tutta questa spesa con tutti i buoni pasto che ho in mano, sia che siano cartacei, sia che sia un buon elettronico, oppure ecco, c'è una regola che stabilisce in qualche modo un limite, o tutto è riconducibile alla scelta che fa il singolo esercizio commerciale? Ribadisco quello che dicevo prima, cioè tendenzialmente il buono pasto dovrebbe essere finalizzato al consumo del pasto. Ora è chiaro, come si diceva prima, il fatto che uno decida di mangiare un'insalata pronta al supermercato perché magari, come dire, può spendere meno, trova più vicino, più comodo, comunque una scelta personale. Nessuno può dire niente, però ecco, nel senso, come diceva lei prima, il fatto che una parte della restituzione in alcuni casi sia come dire, sbilanciata verso la parte del buono pasto non può certo poi andare a discapito della rete degli utilizzatori, cioè molti pubblici esercizi si reggono sul fatto che proprio polarizzati sul fatto che hanno un grande numero di utilizzatori dei buoni pasti. No, no, certo, ma questo lo possiamo capire. Detto questo, ribadisco, però non esiste la norma che dice non ti è consentito di utilizzarne più, no? Mi pare, ecco. Esatto. Poi abbiamo capito tutte le vostre ragioni, anche per cui qualche volta siete un po' resistenti o respingenti nell'accettazione dei buoni. Abbiamo 3 minuti di tempo prima di salutarci. Volevo sentire un ascoltatore e poi andare alle conclusioni magari con la giurista e con Andrea Keller. Vorrei sentire Luciano da Milano, rapidissimo, grazie. Sì, buongiorno. Volevo sapere qual era il vantaggio del lavoratore. Nel senso che il lavoratore normalmente dice oggi non mangio, domani non voglio pranzare, però ne accumulo 3 o 4, vado al supermercato, in pratica funziona così, il supermercato me li cambia. Questo è l'accumulabile, ma con la parte elettronica è ancora funzionabile o no? Oppure grazie Luciano. Sì. Andare al supermercato con le teste di 2 o 3 colleghi, dice spento ecco. Con allora Monica Valente ci aiuta lei su questo? Certo, ecco, andare al supermercato con le teste dei colleghi no, ecco, non ecco, esatto, come quelli che fanno che timbrano il cartellino d'ingresso altri, per esatto, gli altri. Luciano, no, non ci inventiamo, però ha fatto un esempio un po' pittoresco per cercare di capire l'accumulabilità dell'elettronico, certo. Ecco. Allora, diciamo che sull'accumulabilità con l'elettronico non cambia niente rispetto al cartaceo. Quello che noi sosteniamo è che... Però che cosa si fa? Si va al supermercato e si dice scaricami il valore di 2 buoni? Sì, copri il valore della spesa con i buoni o comunque fino a quando tuo esercente lo puoi coprire. Nel senso, quello che noi sosteniamo è che l'accumulabilità va intesa in questo senso, cioè la non cumulabilità va intesa in questo senso, cioè al lavoratore spetta il buono per ogni giornata lavorata, poi come decide di spenderlo, vogliamo lasciargli almeno questa libertà? Cioè vogliamo lasciargli la libertà di decidere di mangiare oggi più di domani? Cioè se io voglio spendere 2 buoni oggi e 0 domani, ne ho sempre comunque diritto ad 1 al giorno. Allora, a chi reco svantaggio se ne uso 2 oggi e 0 domani invece che 1 al giorno? Questo ancora nessuno ce l'ha spiegato in modo chiaro. Non c'è nessun vantaggio. Chiaro. E quindi dobbiamo abbattere questi limiti. Andrea Keller, assegno gli ultimi 30 secondi a lei. Lei ci rappresenta un settore, da quello che ho capito questa mattina, estremamente vivace. Molto spesso non riusciamo a percepire il movimento che c'è dietro a tanti comparti economici che pure rappresentano una bella fetta di PIL, come lei ci ha ben rappresentato prima, per l'appunto. Che cosa dobbiamo cambiare allora di questo sistema, alla luce anche un po' delle discussioni che sono venute fuori questa mattina? Riesce a dircelo in 40 secondi? Guardi, molto rapidamente, effettivamente oggi la norma normativa, per essere chiari, cita la non cumulabilità del buono pasto. Mm. È vero che è una normativa che è stata scritta 40 anni fa e la cui interpretazione con l'evoluzione delle abitudini alimentari può essere complessa e ha suscitato molti dibattiti. Io sono molto in linea con quello che diceva la dottoressa Valente in particolare, se vale a dire che oggi come oggi bisogna far evolvere ulteriormente la normativa, siamo in un processo di modernizzazione del sistema e questa modernizzazione secondo me deve portare a un rinnovo anche di questo aspetto, portando chiarezza. Non siamo noi operatori che possiamo farlo, ovviamente è un ruolo del governo che ha già fatto un intervento per i 7 euro e quindi a mio avviso può andare ancora al di là portando chiarezza su questo aspetto. No, il tema della cumulabilità è interessante, tanto se uno ne ha 10 e li usa tutti quanti oggi, poi non li usa per tutto il mese. Io capisco che magari in quel momento l'esercente si può anche indispettire e avrebbe anche ragione, perché se gli si presentano 40 persone tutte quante vogliono pagare con la stessa modalità, magari quel giorno ha anche ragione nello storcere il naso. Detto questo, poi per altri 20 giorni queste stesse persone pagheranno in contanti regolarmente, per cui non so se sia davvero più o meno un falso problema. Non abbiamo tempo di approfondirlo con Confesercenti, ci ritorneremo magari più avanti, senz'altro. Io intanto ringrazio il nostro trio di ospiti di questa mattina, devo salutarli rapidamente, andare al traffico e andare all'ultimo tema di oggi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento. Cuore e denari. Basta poco a fare impressione. Basta poco. Basta andare in televisione. Chi non è capitato di tagliarsi in cucina, basta poco, come dice Vasco Rossi, si sta affettando una zucchina, la testa è altrove, zacchete, un dolore forte improvviso, il povero dito si mette a sanguinare, peraltro non si sa come mai ci si riesce sempre a tagliare in un modo tale che il sanguinamento, adesso lo chiedo al dottor Toma subito, infettivologo agli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. Buongiorno dottore, eccoci qua. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Peraltro, sanguinamento. Esatto, ma se guardi, no? Stamattina ho una connessione proprio cerebrale limitata. No, tra l'altro stavo riguardando i messaggi che stavano arrivando relativi alla parte che abbiamo affrontato prima sui buoni pasto. C'è un ascoltatore che scrive: io uso la schiscetta e allora, ecco, magari allora facciamo attenzione mentre la prepariamo, perché eccolo là che zacchete, può arrivare il taglio del dito. Naturalmente speriamo di no. Luca continua a preparare la sua schiscetta a casa. Ci si può tagliare anche diversamente, agli uomini succede facendosi la barba, a volte non ci si taglia ma ci si sbuccia, credo queste che invece si chiamino correttamente escoriazioni superficiali, tipo quelle che ci facevamo da bambini quando cadevamo dalla bicicletta, ci alzavamo con le ginocchia appunto sbucciate. Esatto. Insomma, poi potremmo aprire il capitolo delle bruciature. Io sono reduce da una bella simpatica in un polpaccio per lo scooter, dottor Toma, insomma qua la casistica è molto ampia, lei potrebbe sbizzarrirsi per ore, ma andiamo subito alle prime emergenze. Tagli e ferite. Il primo pensiero è quello di disinfettarsi, presto e bene, no? Tutti d'accordo, sì. Ma usiamo un'acqua ossigenata tradizionale, alcol, o è bene tenere in casa anche altri prodotti un po' meno tradizionali, un po' più moderni? Allora, intanto prima della disinfezione è opportuno, quando il sanguinamento non è un sanguinamento importante, tanto per capirci, quando il sangue non zampilla vivacemente, è opportuno che un po' di sangue esca, perché attraverso la fuoriuscita del sangue in pratica il nostro corpo si difende anche dagli eventuali germi presenti peraltro su tutti noi, sulla pelle. Una volta fatto uscire un po' più di sangue, l'acqua ossigenata rimane il disinfettante principe, il disinfettante più importante, perché è attivo su molti gram negativi, su molti germi gram negativi, su molti germi gram positivi presenti normalmente sulla cute di ognuno di noi, e l'alcol invece ha un'azione, come dire, disinfettante relativamente più bassa rispetto all'acqua ossigenata. Se invece vogliamo il disinfettante veramente più importante, ci sono delle soluzioni a base di clorexidina al 2%, e la clorexidina al 2% è attualmente considerato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il disinfettante migliore, tant'è che viene raccomandato l'uso di saponi alla clorexidina o di creme alla clorexidina anche in ambiente ospedaliero dove tutti gli operatori sanitari devono usare la clorexidina al 2%, perché attualmente si è dimostrato quello più efficace e quello meno gravato da effetti collaterali. Chiarissimo. Allora, intanto invito i nostri ascoltatori, se ce la fanno, in questi 7 minuti di tempo che abbiamo prima della fine della trasmissione, a raccontarci come sono intervenuti nelle piccole emergenze che si sono magari manifestate in casa loro, appunto sia per la sbucciatura del ginocchio del bambino, ma anche per la propria, se è capitato, il taglio del coltello durante appunto la lavorazione della zucchina, oppure la piccola ustione da forno, da scooter, come nel mio caso. 800 24 0024, raccontateci un po' se siete bravi nelle prime regole del pronto soccorso domestico. La ferita è da pulire, dottor Toma, no? Pensiamo a quando i bambini si sbucciano le ginocchia, la ferita è superficiale però è sporca, perché naturalmente cadono sempre o sulla sabbia, magari sulla sabbia non si tagliano, però magari è successo dell'altro, con un piccolo legnetto, insomma sassolini. Si usa acqua e sapone prima del disinfettante o no? No, è opportuno usare subito il disinfettante. Non va lavata la ferita? No, subito il disinfettante con acqua ossigenata o con clorexidina, come dicevo prima, possibilmente scegliendo delle confezioni che abbiano la possibilità, come dire, di aumentare lo spruzzo, la potenza del getto, in modo che in questo modo, aiutandosi anche con delle gardine, possibilmente sterili, meglio la gardina rispetto all'ovatta, al cotone idrofilo, perché la gardina non lascia residui durante le manovre di pulizia, quindi è sicuramente meglio usare subito un disinfettante piuttosto che acqua e sapone che hanno, o se non si ha il disinfettante, anche con acqua semplice piuttosto che il sapone, che invece può creare delle emulsioni, dei piccoli aggregati di sostanze estranee che poi possono rimanere sulla zona della ferita. Certo. Quindi insomma la prima cosa, ecco, la cosa importante è quella che ha detto, a cui non avevo mai pensato, meglio la garza del cotone. Sì, assolutamente meglio la garza, perché il cotone idrofilo può, lascia soprattutto qualche residuo. Se la pelle è sbucciata o se ci sono dei residui estranei, dei corpi estranei, dei sassolini o quello che sia, può lasciare dei residui, sì. Una volta il taglietto, anche se piccolo, a volte può lasciare il segno, no? E quindi una piccola cicatrice. Dottor Toma, c'è un modo per evitarlo, no? Dipende solo dalla tipologia della ferita o anche dal modo in cui poi viene trattata? Ma guardi, le cicatrici purtroppo non è che si possono evitare, peraltro poi ognuno di noi ha una maniera e un modo diverso, geneticamente determinato, di cicatrizzare. Cioè ci sono alcune persone, per esempio, che purtroppo hanno delle cicatrici esuberanti, cosiddetti cheloidi. I cheloidi, sì. Esatto, purtroppo dipende dal nostro DNA. Non c'è modo per evitare la cicatrice, c'è però il modo migliore per tutelare i cambiamenti di colore della cicatrice, che se esposta al sole, soprattutto quando è fresca, tende a diventare un po' più scura rispetto al nostro colore abituale. Quindi ecco, se potessimo evitare di abbronzarla, la cicatrice sarebbe meglio. Va assolutamente evitato di abbronzarla e magari mettendoci una protezione totale sulla ferita, o meglio ancora un ciottino, certo, che protegga l'esposizione. Benissimo. Veniamo alle ustioni, dottor Toma, no? Perché allora, sia da forno, da scooter o da qualsiasi altra cosa in casa, c'è chi suggerisce la più ampia tipologia di rimedio: il ghiaccio, il burro, il miele addirittura, e questa me l'ha suggerita Nicoletta, che saluto perché poi la ripesco lunedì, chi raccomanda di usare solamente la pomata ad hoc, quella venduta in farmacia. Allora, quando ci si scotta e questa pomata non ce l'abbiamo a casa, che si fa? A parte andare a comprarla subito per averla per una prossima emergenza, ma altrimenti il primo rimedio? Il primo rimedio è che in attesa di prendere la pomata o la crema adeguata in farmacia, ne esistono ovviamente tanti tipi, ma insomma non è il caso certamente di fare pubblicità a chi produce queste creme. La cosa migliore, in attesa di prendere appunto la crema adeguata per le scottature, è semplicemente rinfrescare la zona con dell'acqua o dell'acqua ossigenata anche. In questo caso nelle scottature, soprattutto quando va via il primo strato di pelle, la clorexidina, pur essendo indicata, è a volte provoca un po' di bruciore in più rispetto all'acqua ossigenata. E certamente rinfrescare possibilmente con acqua o con clorexidina, in attesa di trovare la crema. Dottor Tom, allora aspetti lì, che adesso non so se riusciamo a fare questa operazione veramente avvincente dell'ultimo minuto e mezzo di trasmissione. Sento Vincenzo da Palermo e vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo, perché il dottor Tom ci stava sfuggendo di mano proprio nell'ultimo istante. Poi magari io ribadisco, se il dottore non la sente, la domanda di Vincenzo o la sua storia. Vincenzo da Palermo, buongiorno, molto rapido, grazie. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. No, volevo raccontare brevissimamente l'esperienza di mia figlia di 11 anni che teneva in grembo un contenitore per scaldarsi le mani, quello in gomma, quello pneumatico. Tutto un tratto questo contenitore si distrugge all'improvviso e viene ustionata tutta nella gamba, nel culettino. Io la prima cosa che ho fatto è stata quella di mentre la pelle le stava cadendo sulle ginocchia, l'ho presa e l'ho buttata dentro la doccia con l'acqua tiepida. Vabbè, sua figlia adesso come sta, Vincenzo? Tutto a posto? Adesso sì, sta bene, per fortuna. Quanto tempo fa è successa questa cosa? Un anno e mezzo fa, però per fortuna il sole ha contribuito, secondo me, un po' a coprire un po' tutte le ferite. Adesso sta perfettamente bene, però lo shock è stato veramente molto brutto. Grazie Vincenzo. Dottor Tom, Vincenzo ci ha raccontato che questo signore è una bambina di 11 anni che si è ustionata con uno scaldamani che le è esploso praticamente proprio addosso. Subito addirittura la pelle è andata immediatamente, lui l'ha buttata sotto la doccia, quindi effettivamente ci stava dando il rimedio che lei ha suggerito all'inizio. Prima cosa da fare, l'acqua. L'acqua, ha fatto bene, io non ho sentito tutta la telefonata, ma ho sentito anche un'altra cosa importante detta dal nostro radioascoltatore Vincenzo, se non sbaglio. Sì. Ha detto una cosa molto importante: non cercare di staccare la pelle, ma rimetterla delicatamente sulla stessa zona da cui si è staccata, in attesa o dell'intervento di un sanitario esperto. Oppure di trovare. Ma questo per evitare che si infetti la ferita o per altre ragioni? Per evitare che si infetti, e poi perché comunque anche in quel pezzo di pelle parzialmente staccato ci sono tutta una serie di sostanze, di molecole e anche di cellule, in questo caso si chiamano fibroblasti, che aiutano, come dire, a recuperare immediatamente il resto. Grazie dottor Toma, purtroppo devo salutarla, ma la ripescheremo sempre al più presto con Nicoletta, che torna lunedì. Io ricordo ai nostri ascoltatori che lunedì Cuore e Denari parte alle 10:30, segnatevi bene questo appuntamento. A tutti buon fine settimana.